Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 euro al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Simona Malagoli di Wanted Cinema per parlare del film Alla mia piccola Sama, al cinema da giovedì 13 febbraio 2020. Simona, ben trovata. Ciao Federico, ben trovato. Lo raccontiamo a chi ci ascolta? Sì, certo. Parliamo di Forzama, nel titolo italiano Alla mia piccola Sama, che è un racconto straordinario, e dico racconto perché tecnicamente Alla mia piccola fame è un documentario. In realtà, per la forza delle immagini e del contenuto che porta, è stato descritto come un film, è stato nominato nella categoria film ai BAFTA, è un film a tutti gli effetti ambientato in Siria, racconta del conflitto in Aleppo, e lo sguardo è quello di una mamma giornalista che nell'epoca in cui scoppia la rivoluzione ad Aleppo fa l'universitaria e comincia con la sua videocamera a filmare questi scontri, che inizialmente sono scontri universitari, che lei vede, di cui è testimone. E lei diventa testimone di questo conflitto per 5 anni. Lei racconta ininterrottamente, con la sua telecamera, raccoglie questa testimonianza di 5 anni di guerra ad Aleppo. Questo materiale, che sono 500 ore di girato, fa un racconto, e fortunatamente riesce a farlo perché sopravvive al conflitto siriano, dedicandolo a sua figlia, perché mentre lei gira non sa se quella sarà una videolettera di testamento alla figlia, se sarà un modo per raccontarle perché ha deciso di farla nascere in un momento di conflitto, o se sarà semplicemente un modo per spiegarle perché lei e suo marito, questo medico che lei filma costantemente durante il conflitto, hanno scelto di restare invece che scappare e portare loro e la bambina in salvo. Questa è la storia di Alla mia piccola Sama. Una delle riflessioni che mi sono venute in mente adesso che ne hai parlato presentandolo sono due. Una, le vittime civili, sono sempre più i civili a pagare i prezzi delle guerre. In questo caso, con l'assedio di Aleppo, sono entrati in gioco degli eserciti nazionali. E una delle scene del film ci dice che questi eserciti nazionali hanno colpito volontariamente 8 ospedali su 9 di quelli presenti in città. Sì, infatti Forzama è partito come film ed è diventata adesso una campagna mondiale che si chiama Action Forzama, Stop Bombarding Hospital, proprio perché lei, che nel frattempo durante il conflitto è diventata moglie del medico, ha filmato prevalentemente quello che succedeva all'interno di questi ospedali, che costantemente venivano bombardati e loro si spostavano e ricostruivano anche con delle situazioni di fortuna, col desiderio di aiutare, ma non tecnicamente veri e propri ospedali. Quindi lei filma proprio con questo desiderio di mostrare all'Occidente quello che sta succedendo. Ad Aleppo sono stati bombardati gli ospedali, che normalmente non diventano punti di assedio, invece ad Aleppo sì, tant'è che loro si spostano fin quando l'ultimo ospedale diventa anche quell'obiettivo militare, quindi sanno che restano, quella volta è la fine, e si spostano e decidono, probabilmente perché c'è la figlia piccola, comunque la storia è proprio particolare per questa anche di Aleppo, in cui i civili sono bombardati. E la seconda riflessione è proprio relativa all'impotenza delle Nazioni Unite di fronte a questi crimini di guerra. Sì, il film film è proprio una riflessione su questo tipo di atteggiamento rispetto a un conflitto che è di fianco a casa nostra e di cui noi molto spesso sappiamo molto poco. Ci arrivano le notizie dei telegiornali e che siamo talmente tanto abituati a vederle che ormai siamo quasi assuefatti, e la visione di Forzama ti impedisce l'assuefazione perché è talmente tanto forte, è talmente tanto toccante, talmente tanto intima che ti porta dentro, ti sconvolge. A me ha veramente creato un vuoto la visione di questo film, cioè una sorta di annichilimento proprio. Non hai punti di riferimento dopo che l'hai visto e dici: ma io dove sto? Cioè, questo accade di fianco a me, io non ne sapevo nulla. Questo è un po' un effetto che ho sentito da tanti che hanno visto il film, provoca. Pensi di sapere tutto sulla guerra? Abbiamo film meravigliosi in sala che parlano della guerra finché non la tocchi con questo sguardo. Un altro elemento è la notevole soluzione tecnica del montaggio, per cui spesso si sentono delle voci che sono in presa diretta rispetto a quello che sta avvenendo, ma che non sono coordinate con le immagini, si riferiscono ad altro, e questo dà l'idea dello sfasamento completo che si subisce sotto i bombardamenti e in piena guerra. Sì, questo è stato uno dei motivi per cui il film ha avuto anche questo successo di riscontro sul pubblico, perché la regista è stata molto brava ad utilizzare questo materiale, costruendo una vera e propria storia, facendo anche delle scelte temporali, non lineari, e quindi rielaborandolo in modo tale che non fosse una narrazione di guerra precisa e puntuale, ma fosse una narrazione raccontata attraverso il suo sguardo. E questo ha fatto sì che il film diventasse molto fruibile, empatico per chi lo guarda, e ti portasse però per mano dentro all'orrore, perché il film non si può non dire che mostra delle scene veramente molto molto crude, però ha poi un modo di porlo che non suscita lo spavento, ma suscita soprattutto una riflessione, ed è tra l'altro una riflessione su una possibilità, perché lei in questo conflitto, in questo orrore, dà alla luce una bambina, porta la vita, ed è un film di assoluta speranza. Questo è il desiderio suo, la speranza che questi orrori vengano alla luce e non si ripetano. È un film che ha ottenuto importanti riscontri a livello internazionale. Sì, si può dire, l'abbiamo scritto con orgoglio sul trailer, che è il documentario più premiato di tutti i tempi. Riconoscimenti in tutti i festival del mondo. Il primo e più importante è stato Cannes, in cui ha vinto come miglior documentario, per poi andare veramente in tutti i festival. In Inghilterra è stato candidato, che è la cosa che dicevo prima, in 4 sezioni, tra cui miglior film, miglior film straniero, miglior regia, miglior esordio, ha vinto come miglior documentario, ha vinto agli Oscar europei come miglior documentario, e adesso è in cinquina per l'Oscar, e noi facciamo domenica tutti il tifo per Sama, perché ci crediamo molto e ci speriamo che l'Oscar gli dia ancora quel tocco di visibilità, perché il contenuto è fortissimo, ma il genere è sempre difficile da trattare perché il documentario spaventa. Che uscita sarà? In quante sale? Fortunatamente gli esercenti non sono stati spaventati né dal genere né dal tema, quindi il documentario di guerra non ha spaventato, quindi uscirà 40 copie nella prima settimana, ma arriverà pian pianino con delle rassegne più o meno in tutte le città d'Italia, e questa è una cosa che ci fa tanto felici, perché avevamo avuto esperienze precedenti con documentari di guerra, tra l'altro sempre sulla guerra ad Aleppo, e l'accoglienza era stata completamente differente, quindi vedere un esercizio pronto ad accoglierlo ci fa ben sperare che anche il pubblico abbia il desiderio di andare a vederlo. Alla mia piccola Sama, al cinema da giovedì 13 febbraio 2020, con Wanted Cinema, un saluto e un ringraziamento a Simona Malagoli. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, grazie a tutti. Ciao Federico. Con Eddie Bertozzi di Academy 2, che distribuisce il film Memorie di un assassino di Bong Joon-ho, al cinema da giovedì 13 febbraio 2020. Eddie, ben trovato. Grazie, grazie a voi. Lo descriviamo sinteticamente a chi ci ascolta? Sì, Memoria di un assassino è il secondo film di Bong Joon-ho, quasi unanimemente riconosciuto come il vero grande capolavoro del regista, è già un cult per i cinefili di tutto il mondo, ma purtroppo non era mai stato visto al cinema in Italia. A seguito del grande successo di Parasite abbiamo pensato di portarlo appunto al cinema per la prima volta in Italia con una uscita commerciale, speriamo il più possibile ampia, in modo che tutti possano goderne. È un film apparentemente molto diverso da Parasite, perché un thriller anche qui venato di commedia nera, grottesco, è ambientato alla fine degli anni 80 in Corea, nelle campagne coreane, in cui a un certo punto un serial killer comincia a seminare il terrore, uccide una serie di donne in condizioni che, appunto, essendo un serial killer, si ripetono, donne vestite di rosso, uccise nelle nottate di pioggia e con modalità analoghe. Tre detective cominciano a inseguire gli indizi e indagare sul caso, ma questa non sarà una semplice caccia all'assassino, ci addentreremo in qualcosa di molto più oscuro, molto più profondo, ovvero prima di tutto negli androni misteriosi della mente umana e all'interno di una società, quella della Corea di fine anni 80, ancora nelle maglie della dittatura, e tutte le contraddizioni che appunto questa situazione politica esprimeva. Dove lo avevate intercettato il film? È un film che da cinefili conoscevamo, avevamo nel cuore da tanto tempo, è un film del 2003, ma che risulta assolutamente moderno e contemporaneo. Visto il grande successo di Parasite, ci siamo accorti più che altro che non aveva mai avuto un'uscita commerciale in Italia, ci è sembrato assolutamente doveroso per una distribuzione che si occupa di cinema di qualità e che aveva appena portato al cinema con successo Parasite, finalmente proporlo per la prima volta al pubblico. All'estero che tipo di risposta aveva avuto all'epoca? Ma il film aveva girato in diversi festival in tutto il mondo, aveva avuto delle uscite in sala. L'Italia purtroppo è sempre un mercato un po' complicato quando si tratta di cinema asiatico da vedere sul grande schermo, e penso che uno dei grandi meriti di Parasite sia proprio quello di avere sdoganato il cinema orientale finalmente in Italia e per il grande pubblico. All'estero è già un cult e ci auguriamo che con questa uscita possa finalmente diventarlo anche in Italia, e non solo per una cerchia ristretta di cinefili. Personalmente, cosa avevi apprezzato di questo lavoro? Sebbene il film sembri un po' diverso rispetto a Parasite, in realtà quello che mi colpì in Memoria di un assassino sono gli stessi elementi che mi hanno colpito in Parasite, ovvero la descrizione di personaggi assolutamente complessi, fatti di mille sfumature, che vanno dal serio al drammatico, al violento, al ridicolo. E quando un regista riesce a dipingere dei personaggi in questa maniera così sfumata, così complessa, riesce veramente a restituirci una visione del mondo, della società, che non può non colpirci profondamente. Ecco, quindi è proprio la complessità nella descrizione dei personaggi la cosa che rende il film incredibile, oltre a una maestria e una mano nel girare le scene, nel comporre le immagini, che vedrete assolutamente incredibile. Che tipo di uscita sarà? Stiamo lavorando proprio in questi minuti all'uscita, sarà un'uscita che ci auguriamo il più possibile ampia. Inizieremo sicuramente con delle copie nelle città principali, dove riteniamo che insomma il film possa avere un seguito più forte fin da subito, e ci auguriamo che poi con il passaparola il film possa girare in tutta Italia e arrivare anche fino insomma alla provincia più profonda, dove ormai insomma Buongiorno è diventato un mito dappertutto. Immagino che insomma avremo richieste un po' da tutta Italia. Memorie di un assassino di Bong Joon-ho al cinema da giovedì 13 febbraio 2020. Un saluto e un ringraziamento ad Eddie Bertozzi di Academy 2 che lo distribuisce. Un abbraccio, in bocca al lupo e alla prossima, Eddie. Alla prossima. Con Giandomenico Curi, regista del documentario A Sud della Musica, La Voce Libera di Giovanna Marini, A Roma, all'archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, mercoledì 19 febbraio 2020, proiezione incontro con l'autore. Gian Domenico, ben trovato. Ben trovati a voi, grazie, a te. Ce lo presenti? Sì, intanto diciamo che questa è un'anteprima, questa che facciamo all'Amod. Sì. Nel senso che poi è prevista un'uscita nelle sale, diciamo una distribuzione che stiamo costruendo un po' città per città, perché questo tipo di film poi o li accompagni così oppure è difficile inventarci un'altra storia. Sì. E uno dei primi appuntamenti è quello del 13 a Sesto Fiorentino. Sesto Fiorentino è la sede dell'Istituto De Martino, e proprio all'interno del De Martino, ma in una sala grande, in una sala cinematografica di Sesto Fiorentino, faremo una prima proiezione, diciamo, pubblica in qualche modo, al di là delle anteprime. Un'altra cosa che volevo dire è che invece a Roma ci sarà presente alla proiezione Brizio Montinaro, che è un personaggio straordinario, a mio avviso, cioè è uno dei primi che ha fatto raccolta sul territorio, a pubblicare, diciamo, un'antologia di canti sorrentini, ed è un personaggio che ha un rapporto anche con il teatro, con il cinema, è uno che ha fatto i film di Angelopoulos, Castigliato alla Taranta, insomma è un personaggio che ha molte cose da raccontare sulla Puglia di tradizione e sui personaggi che ancora abitano quel territorio. È un film a cui tengo molto, perché intanto credo che sia il film più interessante e più importante costruito attorno a Giovanna Marini, insomma, che alla bella età di 80 anni ancora non aveva una storia messa in immagine, e abbiamo scelto per raccontarla un viaggio che lei ha fatto alla fine degli anni 60 e che noi abbiamo rifatto 2 anni fa, cioè questo viaggio in Salento, perché in qualche modo secondo me lì c'è un po' la chiave poi del modo di cantare di Giovanna e nel modo di proporre la musica di tradizione di Giovanna. Veramente da allora ad oggi sono passati 50 anni e sono successe tantissime cose, nel senso che Giovanna, come sai e come sapete, ha fatto di tutto, insomma, nel senso ha una scuola, insegna in Italia, insegna in Francia, continua a girare, a fare spettacoli, eccetera. Però in qualche modo quello che è successo in Salento allora ha un po' determinato il suo modo di fare musica, che non è un revival, come si diceva allora, cioè un riproporre paro paro quello che era il canto di tradizione, quella che lei è andata a cercare in Puglia e in Salento, ma in qualche modo un reinventarlo man mano, no? Cercando di trovare delle nuove forme di comunicazione più adatte ai tempi che cambiano, quindi intervenendo sulle cose più interessanti all'interno del canto, forzando alcune intonazioni, alcuni modi, alcune costruzioni, spesso stravolgendole, però raggiungendo sempre un risultato molto interessante proprio a livello di comunicazione e di emozione. Per questo la Puglia è importante. Ecco, qual è stato il passaggio cruciale in Puglia che ha determinato poi il futuro? È il suo modo di lavorare sul repertorio tradizionale. Cioè Giovanna fa un'operazione molto semplice, fa un'operazione quasi strutturalista sulla musica e sui canti che raccoglie, li smonta completamente, scarta, diciamo così, quello che è più commerciale, tra virgolette, no? Quello che è più facile, più di consumo, e va a cercare invece gli elementi più eversivi, diciamo così, più incompatibili con il mercato, se vogliamo, no? E su quelli punta, cioè cerca sempre la diversità, e quindi questa capacità poi di forzare le situazioni, no? di alzare l'intonazione, di allungare l'intonazione, il lavoro che lei fa, per esempio, sul canto funebre, no? Quel cosiddetto sfolo che lo inventa lei, neanche esisteva prima, credo, no? Di alzare le note, bisogna arrivare nella nota più acuta e poi girarci attorno e poi riscendere, cioè è una tipica forzatura di un canto di tradizione funebre che lei ripiglia e che poi, per esempio, lo ritroviamo pari pari nel lamento per la morte di Pierpaolo Pasolini. Ecco, questo ti dà esattamente l'idea del tipo di lavoro che Giovanna fa. Come hai deciso di strutturare il documentario e che chiave gli hai voluto dare? La struttura è un po' quella del viaggio, è un viaggio che ripercorre un po' i passi, diciamo così, di 50 anni fa, che già allora era un viaggio molto strano, cioè Giovanna è una che non va a fare la documentazione per poi portarla o deporla, non so, all'Istituto De Martino, no, Giovanna va lì perché vuole fare un'esperienza di vita, cioè lei va lì, un'intervista che non si fa mai, bisogna stare là in piedi, commenta, canta insieme, cioè c'è una, è un modo, tra l'altro lei registra poi su un registratore a cassette, ci registra sopra, cioè è una cosa assolutamente diversa, assolutamente spontanea, assolutamente anche vitale, no, ci sono dei pezzi, lei ha scritto poi anche un diario su questo viaggio, insomma, dei pezzi che dice, Dio mio, la Puglia quanto è lunga, non ce la faccio più, si butta per terra, oggi non facciamo niente, ci riposiamo, oppure si fermano, hanno fame e si mettono a rubare dei fichi d'India, cioè è una roba molto già anni 60, non sono di viaggiare così senza uno scopo preciso, poi affidandosi a quello che incontrano per strada, chi è che canta, chi è che non canta, dov'è che c'è questo filone di canti, ecco, è questa... queste veramente esperienze di vita in qualche modo, e questo abbiamo cercato di recuperare, naturalmente oggi in una chiave completamente diversa, abbiamo trovato i figli di quelli che cantavano allora in qualche modo, e però lì è rimasta, ecco, questa voglia, questa capacità, questo modo di cantare che è veramente quello del canto contadino, che poi non a caso lei insegna a, credo che sia l'unica in Italia, insomma, alla Scuola Popolare di Musica di Testaccio, insegna proprio i modi, delle forme del canto contadino. E poi c'è il canto politico, insomma, che è un altro insegnamento, però la cosa interessante è il suo modo di raccontare come funziona il canto contadino, come si usa la voce, come si usa la testa, come si porta la voce, ecco, queste cose qui ancora hanno una forza di rompente, hanno una forza di comunicazione che non è una cosa che non ha mai sentito, cioè ci sono dei modi di cantare anche dentro il film che inchiodano, cioè il film è molto musicale naturalmente, ci sono molti momenti in cui ritroviamo quest'amore di Giovanna per la musica, e lei si incanta ogni volta che sente una voce, insomma, altro che la musica lirica, queste sono delle voci vere, naturali, no, cresciute un po' sul territorio, cresciute dentro la tradizione. Per saperne di più sul documentario e anche sul suo tour, ci lasci dei riferimenti internet? C'è il sito della produzione salentina che si chiama Medic Film, e poi insomma c'è anche qualche riferimento stesso, perché tra l'altro l'AMOD, l'archivio del Movimento Patria Democratica, è anche coproduttore del film, in quanto tutto il repertorio è tantissimo, come immaginerai, perché insomma siamo andati a ritrovare quest'Italia di allora e viene tutto dall'archivio, quindi già quello è un riferimento molto importante. A Sud della Musica, la voce libera di Giovanna Marini. Un saluto e un ringraziamento al regista Gian Domenico Curi. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie a te, arrivederci. Con Francesco Corsi, regista del documentario Caterina. A Roma l'Apollo 11, proiezione incontro con l'autore giovedì 13 febbraio e poi in tour da sabato 15 febbraio 2020. Francesco, ben trovato. Grazie. Lo raccontiamo brevemente a chi ci ascolta? Sì, volentieri. È un film a cui sto lavorando da diverso tempo, dal 2016. È cominciata la parte di scrittura e di ricerca e l'abbiamo poi concluso a fine anno scorso presentando in anteprima al Festival dei Popoli a Firenze. È un film su Caterina Bueno, che è stata una cantante, un'interprete, una ricercatrice del canto popolare, e grazie a lei molte delle canzoni, dei canti che facevano parte prevalentemente della cultura contadina oggi sono rimasti patrimonio nostro, patrimonio di tutti, insomma, altrimenti sarebbero scomparsi come è scomparso quel mondo. Da dove è partita questa idea? C'è un mix di cause. Un interesse personale mio per la memoria, per il rapporto che sia le persone sia una comunità con la memoria singola o collettiva, come si trasforma, come si perde, come svanisce anche la memoria, quali sono invece le maniere per conservarla. E poi ho una certa confidenza con la voce di Caterina Bueno, perché la ricordo in qualche musicassetta da bambino che risuonava in qualche vecchio stereo e mi ha sempre colpito perché era una voce che non riuscivo a situare, non capivo se era vecchio o giovane, era già allora una voce completamente fuori dal tempo, ma che cantava canzoni ninna nanne o anche canzoni di protesta sociale che facevano parte comunque di un sentire comune qui in Toscana. Come hai condotto la ricerca e poi come hai strutturato il lavoro? La ricerca di per sé è cominciata con due incontri, con alcuni degli ultimi musicisti accompagnatori di Caterina, alcuni suoi amici, e con la famiglia Bueno, in particolare il fratello Paquito. Con gli amici sono riuscito a entrare in una dimensione, diciamo, di memoria riflessa, di ricordo intimo, particolare, non ufficiale, ecco, lontano dalle luci della ribalta. Attraverso la famiglia invece ho avuto accesso a una grande mole di documenti, l'archivio, anche se piuttosto disorganico, di Caterina è ricco di registrazioni, di autoregistrazioni, di interviste che Caterina aveva concesso, qualcuna anche qualche intervista mai pubblicata o mai trasmessa, e mi è servita a costruire una sorta di biografia per memoria di chi la conosceva, ma anche una sorta di autobiografia, perché la voce di Caterina poi è forse la vera protagonista del film. Che tipo di distribuzione sarà? Dal 13 febbraio saremo in partenza con il tour italiano, toccheremo con prevalentemente saranno proiezioni in evento in diverse città d'Italia. Abbiamo già pianificato tra febbraio e marzo molte date: Roma, Firenze, Siena, Pisa, Perugia, Milano, Torino, Genova. È abbastanza sorprendente perché, pur contando sulle nostre forze per la distribuzione, c'è molto interesse, ed è un interesse che avevamo percepito già durante la campagna di crowdfunding che abbiamo fatto per all'inizio del processo di lavorazione. Vediamo anche adesso che comunque, nonostante sia una storia tutto sommato locale, interessa per i suoi accenti forse universali, no? Parlo di musica popolare, anche altre zone d'Italia e non solo. Quindi sicuramente il grosso sarà fatto febbraio-marzo, ma poi anche in tutta la primavera ci saranno nuove proiezioni. Facendo questa ricerca e poi interagendo con tutte queste persone, che idea e che impressioni hai ricavato rispetto alla figura di Caterina? La prima, in assoluto, con cui ho dovuto fare i conti, è che era una figura troppo complessa per raccontarla in maniera lineare, con una semplice linea biografica, ed è anche il motivo per cui ho preferito raccontarla per frammenti di memoria. Molte di queste memorie sono più, come dire, tracce dell'eredità che Caterina ha lasciato, e ce ne sono molte, tutte secondo me molto interessanti e molto affascinanti, anche contraddittorie qualche volta, che però parlano di una persona che ha lasciato un segno, perché non c'è persona che l'abbia incontrata e non sia stata in qualche modo toccata o trasformata nel suo fare musica o nel suo guardare al mondo popolare. Personalmente ritengo Caterina una personalità straordinaria per il solo fatto, appunto, di aver potuto salvare dall'oblio questo grandissimo patrimonio, e l'ha fatto in maniera mai nostalgica, nel senso non guardava al passato come un'età dell'oro, era cosciente del fatto che il passato era un passato di miseria, di malattia spesso, e anche di dramma per le classi sociali più svantaggiate, lei di cui lei raccoglieva canti. Però proprio parlare di quel mondo lì voleva dire anche farsi carico di istanze di cambiamento sociale, di pensiero critico di cui c'è molto bisogno ancora, secondo me. Tutto questo patrimonio musicale che ha raccolto Caterina è fruibile? Molti dei canti che lei ha raccolto sono stati poi pubblicati nella sua discografia. C'è poi tutta una parte di archivio, che è quello che lei ha lasciato dopo la sua morte, che è oggetto proprio in questo periodo di una nuova campagna di digitalizzazione, quindi l'augurio è che lo sarà molto presto disponibile. Per saperne di più sul tuo lavoro ci lasci tutti i riferimenti internet? Sì, siamo su Facebook, la pagina è caterinabueno.com/catedoc, abbiamo un sito internet caterinabueno.com, chi ci volesse scrivere per segnalarci o dubbi, consigli o anche proposte di collaborazione o di proiezione può farlo a info@caterinabueno.com. Caterina a Roma all'Apollo 11, proiezione incontro con l'autore giovedì 13 febbraio, in un tour in Italia da sabato 15 febbraio 2020. Un saluto e un ringraziamento al regista Francesco Corsi. Un abbraccio, un in bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie a voi, crepi zupo, a presto. Con Mario Sesti, uno dei curatori della 7ª edizione di Cinema al Maxi, dal 12 febbraio al 29 marzo 2020. Mario, ben trovato. Grazie, benvenuti, cioè, grazie a voi. Raccontiamo un po' Cinema al Maxi, siamo alla 7ª edizione, come era nato tutto? Beh, tutti i grandi musei d'arte contemporanea, a partire dall'esempio del forse più celebre e più prestigioso di tutti, quello di New York, il MoMA, hanno da sempre, ormai da più di un secolo, inserito il cinema tra le arti contemporanee. Mi sembra difficile che qualcuno possa sostenere il contrario oggi. 7-8 anni fa il Maxi chiese alla Fondazione Cinema per Roma, che è la fondazione che fa che cura la festa del cinema, di fare delle proposte per dei programmi di cinema, e io sono stato incaricato di articolare questo programma, e da lì, come sai, perché tu sei stato uno di quelli che l'ha seguito più da vicino, è nata tutta una serie di proposte che poi è finita con questo festival extra doc, che è giunto la sua terza edizione, il Festival Documentario Italiano, che è diventata un po' la spina dorsale, diciamo, in tutto quanto il programma. Si tratta però di un programma molto composito, nel senso che la versatilità, la ricchezza e anche un po' l'innovazione sono un po' le sue caratteristiche. Del resto, un museo che si chiama Museo del XXI secolo della creatività contemporanea potrebbe essere diverso. Per esempio, quest'anno con Andrea Minus, che è professore della Sapienza, abbiamo realizzato, progettato un nuovo festival che sta all'interno di questo programma, che è il Festival dei Video Essay, che come credo tu sappia sono questo genere che si è diffuso molto online, che è una specie di critica cinematografica per immagini e che è uno dei generi forse più originali, più interessanti, anche dal punto di vista proprio estetico, linguistico, più plastici, più stimolanti. Ecco. Tra l'altro abbiamo aperto un bando qualche settimana fa e quindi chiunque si senta all'altezza di scrivere una critica di un film o un saggio per immagini, ce ne sono di bellissimi in giro, per esempio tutti gli occhi aperti nei film di Spielberg, per esempio, no? Oppure l'uso del tempo nel cinema di Nolan, no? Però appunto può consultare il nostro bando online, può partecipare e ci sarà per l'appunto una giornata il 25 marzo veramente dedicata. Però, come tu sai bene, è un po' la natura promiscua, spuria, anche un po' irregolare di questo programma che ha fatto la fortuna, perché per appunto il pubblico si è allargato sempre di più, è diventato un appuntamento credo piuttosto importante. Abbiamo intercettato desideri tutti coloro che vorrebbero vedere al cinema non semplicemente le cose che passano in film nei cinema normali, ma anche tutto ciò che la regolare programmazione non riesce in qualche maniera a processare. E quindi, oltre ai documentari italiani, che io ritengo essere forse quello del documentario uno dei generi di maggiore interesse oggi nella programmazione della produzione italiana, per certi versi forse anche più interessante di quella tradizionale di mainstream di finzione, abbiamo il 12 con un documentario dell'Anteprima Mondiale interamente dedicato ad Alberto Sordi, di Silvio e Giancarlo Governi. Come sai, Sordi quest'anno ricorre il centenario della nascita, quindi sono varie manifestazioni, e questo è uno degli appuntamenti più importanti. Però all'interno di questo festival ci sarà un altro ritratto molto bello di un altro gigantesco attore, Turiferro, meno conosciuto di Alberto Sordi, ma credo non meno importante. Però al di là appunto dell'idea di proporre una vetrina sul documentario in cui c'è un po' di tutto, biografie, ma anche è un genere molto cosmopolita, ci sono film italiani fatti in Cambogia, per esempio, oppure il bellissimo film della Maggini che sta adesso a Rotterdam, noi lo presentiamo nella televisione italiana, Due scatole dimenticate, che ricostruisce la storia di un suo reportage del Vietnam. Cecilia Maggini è forse la più autorevole documentarista oggi in Italia, probabilmente in Europa. E poi naturalmente c'è la tradizione, che è quella tipica della Fondazione Cinema per Roma, una tradizione che credo peraltro per un po' iniziato io a colpire la testa, è quella delle conversazioni, dei talk dal vivo. C'è un incontro con Carlo Verdone il 18 marzo, ce n'è uno anche con Muccino la settimana prima. Ci sono due duetti che hanno formato a me particolarmente caro, con diversi tentativi di imitazione anche all'interno dell'auditorio. C'è un duetto sul noir, Giancarlo De Cataldo e Maurizio De Giovanni, il 21 marzo, sono due autori del noir, questo genere poliziesco, thriller, crime movie, che ha una particolare funzione editoriale e soprattutto ha un legame molto stretto con le sue ricadute, diciamo così, nell'immaginario audiovisivo. Basta ricordare i bastardi di Pizzo Falcone, oppure Gomorra o Suburra. E poi un incontro, un duetto un po' particolare tra Chiara Francini, e Francesca Daloia, che sono due attrici che hanno una filmografia, diciamo, autorevole e consistente sulle spalle, ma nelle ultime stagioni si sono anche affermate come scrittrici, quindi un duetto attrici-scrittrici. E poi non bisogna scordare che un'altra delle caratteristiche di Cinema Maxi è l'appuntamento col film per ragazzi, per famiglie, curato da Alice Febri. Sabato c'è, anche con un'anteprima di rilievo, quella di Chiave della Foresta, molto attesa, però ci sono film come La Freccia Azzurra, di cui ricorre una ricorrenza molto importante, la famosa invasione degli Orsi in Sicilia, che ha avuto un largo eco anche all'estero, Steam Boy, eccetera. E tra le che quella più cinefila, naturalmente, come sai, c'è un animo, un fiume calcio profondamente cinefilo, che cerca di fare un maxi quello che una volta faceva un cineforum, un cineclub in questa città. C'era un omaggio alla Cineteca di Bologna, che forse è l'istituzione che maggiormente si è messa in luce in tutta Europa e credo anche in tutto il mondo, visto che come Scorsese corrono alla Cineteca per la conservazione delle proprie opere, ma è anche un modo di fare Cineteca completamente diverso dal solito, perché acquisisce il restauro dei film, quindi avremo dei restauri molto importanti che hanno fatto loro, come per esempio La Strategia del Ragno, ma anche Ascensore per il Patibolo. E credo che domenica, questa domenica per l'appunto, ci sia un film che possa davvero o debba entrare nel radar di tutti coloro che hanno amato il cinema, cioè c'è la nuova versione di Apocalypse Now presentata a Bologna per l'appunto qualche mese fa, che noi presentiamo qui in Italia, ed è l'ultimo montaggio di questa specie di opera aperta che ormai Apocalypse Now nelle mani del suo regista Francis Coppola, che negli ultimi anni ne ha approntate diverse versioni. Nel complesso, quanti sono gli appuntamenti e poi se ci sono giorni fissi dedicati all'Extra Doc? Mi presente che i giorni sono fondamentalmente mercoledì, sabato e domenica. Perfetto. Mercoledì è il giorno del Festival Extra Doc, costo 5 euro, un film alle 19, uno alle 21. C'è una giuria autorevole, che è presieduta da Daniele Rocchetti, ma ce n'è anche una popolare, formata da una quarantina di persone che si vedranno insieme a me tutte le proiezioni. E poi, ecco, questo è importante, i film che verranno selezionati, anche a dimostrazione del fatto che questo festival ci sta, come dire, in qualche modo, diciamo, entrando nel circuito della programmazione, anche nell'attenzione di coloro che amano il cinema a 360 gradi. Questi film selezionati saranno poi programmati al Lux di Roma da Leandro Pesci, che è un esercente molto attento anche a questo tipo di programmazione, e poi dal Terzo Municipio di Cristian Raimo, che ha aperto, come probabilmente sai, una vera e propria programmazione di cinema in una saletta a Montesacro, e poi addirittura andranno a New York e a Mosca, perché abbiamo stretto un accordo con il NICE, che è una settimana di cinema italiano, che inserirà nella propria programmazione appunto un paio di questi titoli della nostra selezione ufficiale del Festival Extra Doc, dedicato al documentario italiano per l'appunto. Per la programmazione c'è il sito internet del Maxi e anche quello di Fondazione Cinema. Oh. Quindi entrambi, sarà tutto online, e chiunque passi naturalmente dal Maxi potrà direttamente prendere il pieghevole con il programma come ogni anno. Ci sono anche alcune anteprime particolari, come Il Doppio Sospetto, un film thriller molto chicocchiano, il 22 febbraio, ma c'è anche nell'omaggio alla Cineteca, abbiamo anche la possibilità di finalmente far vedere film che sono ormai diventati, anche a distanza di pochi anni, dei piccoli gioielli, come Visage, Village di Agnès Varda, per esempio. Insomma, è evidente che un posto come il Maxi, che è probabilmente la punta avanzata appunto di tutto ciò, di chiunque sia curioso del qualcosa che possa chiamarsi creatività, oggi non poteva non ospitare un focolaio, diciamo così, piccola e grande incandescenza di tutto ciò che di creativo si muove, diciamo così, nell'orizzonte del cinema oggi. Settima edizione di Cinema al Maxi Extra Doc Festival, dal 12 febbraio al 29 marzo 2020. Un saluto e un ringraziamento ad uno dei curatori, Mario Sesti. Mario, un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Grazie Federico, sei sempre molto corteso e attento. A presto. Con Sergio Ponzio, uno dei curatori dell'On the Road Film Festival, settima edizione del Festival Internazionale Autoprodotto di Cinema Indipendente di Viaggio, Errante e di Frontiera, a Roma, al Cine de Tour, dal 14 al 23 febbraio 2020. Sergio, ben trovato. Grazie Federico, grazie mille di darci sempre questa opportunità di far arrivare al pubblico di potenziali interessati al cinema di viaggio queste proposte di cinema indipendente che non trovano quasi mai, diciamo, dei canali adeguati per essere poi apprezzate dal pubblico. Raccontiamolo dalle origini. Sì, siamo arrivati alla settima edizione con una certa difficoltà quest'anno perché non ci sono stati accordati contributi su cui, diciamo, di solito contavamo un minimo di contributi della regione e del Dipartimento Cinema per aiutarci, insomma, perché poi fra le altre cose il festival è prodotto dal Cinema de Tour, che a sua volta è un'associazione culturale che è attiva a Roma, insomma, da più di 20 anni, e anche come associazione non abbiamo mai avuto sovvenzioni, contributi, nessun tipo di aiuto istituzionale, se non appunto qualche occasionale piccola sovvenzione sulla base di progetti che siamo riusciti a presentare. Questa collaborazione che andava avanti con alti e bassi, con la regione, è venuta a mancare quest'anno e ci siamo chiesti se avessimo potuto comunque portare avanti il festival. Abbiamo voluto provarci lo stesso e alla fine siamo molto contenti del risultato, perché oltre a essere appunto poterci definire fieramente autoprodotti e totalmente indipendenti quest'anno, siamo riusciti comunque a raccogliere una serie di lavori molto interessanti provenienti da diversi paesi del mondo, con la nostra attenzione abituale a un cinema itinerante, a un cinema senza confini, che anzi mette proprio a tema lo sconfinamento, no? Quindi largo a generi, formati, sensibilità molto diverse tra di loro, però con questo trade union che appunto abbiamo mantenuto nel corso degli anni. Quest'anno in particolare, oltre alle due sezioni principali del concorso dei lungometraggi e del concorso internazionale dei cortometraggi, abbiamo due eventi speciali che sono fuori concorso, uno di quali aprirà il festival ed è la proiezione di un documentario di Werner Herzog, che è molto attivo in questa sua fase avanzata, insomma, di produzione, di cui stiamo già tenendo in programmazione alle tour un film, bellissima intervista a Gorbaciov, e di cui invece fuori concorso al festival proietteremo Family Romance, che è uno strano oggetto documentario girato interamente in Giappone, in giapponese, che segue un attore imprenditore che ha messo su questo business basato sulla possibilità di reinterpretare delle persone reali per in qualche modo beneficio di altre persone che appartengono magari alla stessa famiglia, per cui magari la figlia che non ha mai conosciuto il suo vero padre ha la possibilità di conoscerlo impersonato da questo attore, o il padre che accompagna la figlia al matrimonio che è scomparso, oppure un fotografo di alta moda che fotografa una aspirante modella. Insomma, lui è un camaleonte che è pronto a interpretare quello che viene richiesto da persone che naturalmente lo pagano per quello, ma che hanno quindi l'opportunità di vivere delle esperienze che altrimenti non avrebbero potuto vivere, e di solito ci sono di mezzo di affetti, spesso parentali, e quindi c'è una dimensione anche etica, una dimensione di ambiguità, perché comunque si tratta pur sempre di un business, quindi dove finisce il beneficio reale che queste persone ricevono e dove inizia invece solo uno scopo di lucro per il quale questo business nasce. Molto interessante l'approccio naturalmente di Herzog a questo. Venendo invece ai film in concorso, abbiamo un'attenzione a alcuni temi legati al rapporto tra le comunità e i irrigidimenti che governi, istituzioni, a volte lobby, creano intorno a certi temi del vivere civile. Quindi abbiamo quasi in parallelo due situazioni, una in Giappone e in Cina, di fatto siamo su situazioni molto analoghe, in cui nel Giappone di una piccola isola la comunità combatte perché non sia realizzato un gigantesco impianto nucleare che comprometterebbe di fatto l'intero ecosistema, che è basato fra l'altro su sostenibilissimi sistemi agricoli, di pesca, che sarebbero da prendere anzi a modello, no? Per il mondo intero. E invece rischia anche di scomparire questa esperienza di questa piccola comunità. Si cerca di comprare uno ad uno, no, dei terreni, e di comprare anche i politici locali, perché poi questo mega impianto possa essere realizzato. In Cina invece abbiamo una situazione legata al classico, diciamo, schema della censura del governo cinese ai danni di un regista scomodo, perché lui nei suoi documentari ha contribuito a dissolvere una nebbia che c'era nel passato della storia cinese, facendo emergere certi fatti che evidentemente ancora non sono ben metabolizzati, quindi è stato in qualche modo osteggiato. Per causa sua, un importante festival con cui fra l'altro noi siamo stati gemellati, in una delle prime edizioni del festival, Beijing Independent Film Festival, nell'agosto 2014 è stato fatto chiudere, quindi non è neanche potuto partire, proprio a causa di un documentario di questo regista che si chiama Hu Jie. Il film si chiama The Observer ed è diretto da una giovane regista italiana, molto in gamba, che parla cinese fluente, quindi ha potuto girare questa intervista a casa di quel regista, e si vedono molti materiali di repertorio legati alla sua filmografia. Invece il film giapponese di cui ho parlato prima si chiama The Geographer and the Island, perché questa storia dell'isola e del tentativo di resistere alla creazione dell'impianto nucleare è girato ed è documentato con gli occhi e con la testimonianza di uno studioso francese, un geografo, che propone la sua visione antropologica, geografica legata a questo tema. Una panoramica molto veloce degli altri film: avremo Soyalism, anche questa è una produzione italiana, però un film che gira il mondo e si interroga su cosa sta accadendo nell'agricoltura, nella produzione alimentare globale. Si parla anche qui delle strutture che affliggono i paesi che sono presi di mira da queste multinazionali, giganti della globalizzazione del cibo, mette in correlazione delle realtà lontane tra di loro, queste storie che sono unite da un filo rosso, che è un sistema che avanza e si prende tutto, prende quello di cui ha bisogno, e però nello stesso tempo spoglia i territori, le comunità, delle risorse, diciamo, necessarie per la sussistenza, per l'indipendenza e per la dignità stessa di queste comunità. Abbiamo poi un film documentario, anche questo, che è un'esperienza personale degli anni 90, visti dal punto di vista di due fan di Nirvana, due ragazzi che vivevano ai Castelli, e quando esattamente 26 anni fa, il 22 febbraio del 94, a Marino, a Palaghiaccio di Marino, si tenne il concerto di Nirvana, e fu un momento fondamentale per la loro storia personale e anche per la storia di una generazione intera, e il film è anche un pretesto per raccontare in modo molto ironico, molto divertente, scanzonato, raccontare gli anni 90, quell'epoca per noi memorabile, insomma, di quella generazione. I registi saranno presenti in sala, e prima del film ci sarà un piccolo live set di Lenia Volpe, che interpreterà delle canzoni unplugged di Cobain e compagni. E abbiamo questo Baikonur di Andrea Surini, è un film girato nel Kazakistan, nella base spaziale, il cosmodromo gestito dai russi, ma utilizzato ormai da astronauti di tutto il mondo. Anche il nostro astronauta italiano qualche giorno fa è atterrato lì. È un pezzo di deserto che viene sottratto a questa sua non esistenza, un territorio che non aveva mai interessato nessuno, dove non c'erano risorse da sfruttare, dove i pochi che l'hanno attraversato in qualche modo erano più spaventati che interessati a rimanerci, erano soprattutto carovanieri, mercanti che si spostavano lungo la via della seta, ma insomma quella era una delle zone meno interessanti per loro, per l'economia, finché poi invece i sovietici si sono resi conto che proprio il fatto che fosse lontano da tutto faceva sì che questo posto in realtà fosse a un passo dall'universo intero, quindi lì è stato creato questo cosmodromo, e si racconta mettendo in parallelo questa tecnologia così esibita alla vita che comunque conducono le comunità che vivono a ridosso di questa centrale, quindi questo fortissimo contrasto dove ancora sopravvivono delle tradizioni, degli usi millenari, e invece il massimo, diciamo, della tecnologia deve essere, diciamo, proiettato verso il futuro. Quindi si viaggia in vari modi, anche nello spazio, si viaggia nel tempo, sono viaggi immaginari, viaggi reali. Abbiamo anche un film narrativo solo quest'anno, quindi gli altri sono tutti più o meno dei documentari e docufiction. L'unico film narrativo è un film tedesco, si chiama Der Schrei, è l'opera prima di un regista di origine turca, Bünyamin Musullu, che ha fatto una scuola di cinema a Berlino, interessantissimo dal punto di vista formale, di linguaggio, secondo me. Lo abbiamo scelto perché rappresenta quel tipo di essere on the road dove non si va da nessuna parte, dove si sta ai margini, si vive negli interstizi, diciamo, di quelli che sono invece i consueti snodi di una società, e apparentemente non si hanno spinte direzioni particolari, però è interessante proprio a quel punto vivere la strada come esperienza in sé, senza che sia legata a una destinazione. È la storia di un giovane apparentemente, appunto, senza aspirazioni e senza particolari interessi, però riusciamo a cogliere in questa sua alienazione in realtà una situazione che ci riguarda forse un po' tutti e riguarda comunque le società avanzate e le grandi metropoli. Avremo l'ultima giornata con la proiezione del programma intero dei cortometraggi in concorso, Shortcuts è la sezione dei cortometraggi, sono tutti bellissimi, ci sono molti lavori di animazione quest'anno, anche il più sperimentale, quindi meno narrativa, e al termine del programma di cortometraggi la consueta, diciamo, cerimonia di premiazione con le nostre due giurie, la giuria lungometraggi che quest'anno è presieduta da Marco Videtta, scrittore e sceneggiatore, la giuria dei cortometraggi presieduta da Sabrina Varani, regista, documentarista, amica da sempre del cinema de tour. Il programma è disponibile anche in PDF, potete scaricarlo dal nostro sito, anche dai vari canali social del Cinema de Tour. Il sito è, lo ripeto, www.cinedetour.it. Ah, un'ultima cosa, un evento forse più per i ragazzi, per le famiglie, insomma, comunque per tutti davvero, anche perché l'orario è abbordabile, è 4:30 di domenica 16 febbraio. Proiettiamo il Flauto Magico di Piazza Vittorio, che è un film che si è già visto, è uscito anche nelle sale, però è stato visto poco, secondo me è un film che merita di essere considerato, secondo me, di più, perché è un musical surreale ambientato quasi interamente nei giardini di Piazza Vittorio, che peraltro in questi mesi sono chiusi per dei lavori che sembrano non voler finire mai, ed è interpretato da musicisti dell'Orchestra di Piazza Vittorio, oltre che da Fabrizio Bentivoglio e Petra Magono. È una rivisitazione del Flauto Magico di Mozart, ed è un'idea, diciamo, di riadattare l'opera mozartiana incarnandola sulle performance dell'Orchestra Multietnica di Piazza Vittorio, e ci sarà un incontro con gli autori, Mario Tronco, Gianfranco Cadiddu, al termine della proiezione. Penso che sia tutto. Ti ringrazio molto dello spazio, Federico. Settima edizione dell'On the Road Film Festival, il festival internazionale autoprodotto di cinema indipendente di viaggio errante e di frontiera, a Roma al Cine de Tour dal 14 al 23 febbraio 2020. Un saluto e un ringraziamento ad uno dei curatori, Sergio Ponzio. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie Federico, un abbraccio anche a te e a tutti voi. Regista Luca Maggi sul suo documentario Anita su Indicinema da domenica 9 febbraio 2020. Buongiorno a tutti. Per chi ci ascolta, raccontiamo un po' di questa storia. Diciamo che siamo io e l'autore Antonio Bigini, siamo partiti da questa storia di questo film mai realizzato da Fellini, che ha scritto nel 57 in seguito alla morte del padre. Infatti nel 56 muore il padre di Fellini e nel 57 scrive Viaggio con Anita, e della storia di Guido, probabilmente molto autobiografico, la storia di questo protagonista che parte da Roma e, percorrendo tutta la provincia del centro Italia, l'entroterra, arriva al paesino natale che è Fano, una cittadina sul mare Adriatico. Percorre questo viaggio insieme all'amante Anita, proprio sull'onda della notizia dell'imminente scomparsa del padre. Quindi è un viaggio fisico, ma anche un viaggio interiore del protagonista, che è uno scrittore in crisi di valori, in crisi coniugali e anche in crisi creativa, verso il paese in cui è nato e fare i conti insomma con la propria origine. È un film che avrebbe parlato, diciamo, di morte, di abbandono e di fare i conti appunto con la propria origine. Trattamento alla mano, io e l'autore abbiamo provato a ripercorrere lo stesso viaggio descritto nel trattamento di Fellini, insomma, e abbiamo fatto capo nei vari paesini della provincia descritti, che sono Sutri, Civita di Bagnoregio, Monterchi in provincia d'Arezzo, poi il Passo del Furlo e Fano, a vedere così un po' aperti che cosa potevamo trovare, lasciandoci sorprendere. E abbiamo trovato un po' un mondo intatto rispetto a quello che era descritto nel trattamento di Fellini. Volevo chiederti un paio di cose. Sì. Cosa c'è dietro a questa mancata realizzazione di Fellini? E poi, rispetto al trattamento, cosa avete voluto mantenere del suo spirito, del suo modo di fare cinema? Allora, dietro la mancata realizzazione ci sono probabilmente problemi produttivi, ma anche il fatto che fosse molto scopertamente autobiografico. È il viaggio del protagonista con l'amante attraverso il centro Italia, è un po', probabilmente è una cosa che lui aveva vissuto, e però c'è un'intervista in cui Fellini, parlando di questa cosa, dice di essersi molto pentito di non averlo realizzato, anche se nella sua produzione immediatamente successiva e anche per esempio a Marcord, Otto e mezzo, La dolce vita, si trova traccia di questo trattamento. Siamo concentrati molto sul trattamento, però nel profondo e alle radici dell'idea si può leggere molto di Fellini, soprattutto in rapporto ad alcuni elementi che lui ha utilizzato nella fase successiva della sua produzione. Parlo per esempio di Otto e mezzo, oppure ci sono elementi simbolici che tornano più volte, in cui, diciamo, il richiamo e l'associazione a personaggi di Fellini sono abbastanza diretti. Sì, ecco. Sì. Diciamo che diversi elementi di questo trattamento li ha spalmati poi nelle opere successive, in qualche modo. Sì, un po' come il Mastorna, lui diceva che era come una nave inabissata che ha gettato come delle radiazioni sulla sua produzione successiva, visto che anche col Mastorna, che è molto più famoso di Viaggio con Anita, hanno seguito lo stesso iter ed è stato depredato e si è scaricato, così anche Viaggio con Anita. È un film molto particolare, insomma, dove alla ricerca documentaria si unisce anche un po' un procedimento abbastanza particolare di ricerca sul tempo, perché è un film fatto di incontri e di studio sui luoghi descritti nel trattamento. Questi luoghi e questi incontri evocano in qualche modo la storia, e quindi viene messa in relazione il passato degli incontri delle persone nei luoghi, nel contemporaneo, nei luoghi che abbiamo incontrato in presa documentaria, e viene messa appunto in relazione a una storia ambientata nel passato ma fittizia. Volevo chiederti in chiusura anche dove è possibile avere informazioni in rete rispetto al vostro Anita. Il sito è www.doccinè.com. Allora, io spero di sentirti prossimamente per novità rispetto al film, ma anche rispetto a nuove cose. Ok, ti ringrazio. A presto, Luca. Ciao a tutti. Ciao. Il regista Luca Maggi sul suo documentario Anita su Indie Cinema da domenica 9 febbraio 2020. Con l'artista Omar Rashid per parlare dello spettacolo Segnale d'allarme, la mia battaglia VR a Roma al Teatro Argo dal 4 al 16 febbraio 2020. Omar, ben trovato. Ben trovati a voi. Ci racconti di questo esperimento teatrale? Sì, allora, quello che stiamo portando in scena, così si può dire, all'Argo è la trasposizione in realtà virtuale di La mia battaglia, che è uno spettacolo teatrale di Ale Germano, che in questa forma ha il nome di Segnale d'allarme, La mia battaglia in guar, che vuol dire